Martedì femminista autogestito. Far away from the cold night air. With one enormous JS. Ora noi cari Evon 87.9 Fernando Gilles Neuca e lo Radio Onda Rossa. My goodness, are there still feminists in Italy? Don't you think that it's boring how... E eccoci qui, 20:04 minuti. Il y a encore des féministes en Italie. Ci sono ancora delle femministe in Italia, sono qua. Come ogni giovedì, lo sto imparando piano piano, come ogni giovedì in diretta dalle 20 alle 23 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Forse prima di tutto diciamo qualcosa. Oggi vogliamo abbiamo deciso che il quarto del mese faremo un filo diretto. Significa che voi siete pronte vicino al vostro telefono per chiamarci e dire la vostra. Oggi la domanda è, infatti, comunque in concomitanza, così si dice, con il 25 novembre, quali sono le tue strategie di difesa contro la violenza maschile e il patriarcato? E fra un po' aspettiamo le vostre chiamate e parliamo un po' di questo insieme. Pretty soon I'll be getting on my first plane. I'll see the veins of my city like they do in space. But my head's filling up fast with the wicked games. E dunque questo palinsesto di oggi, un redazionale di maledette femministe da adesso fino alle 23, con il filo diretto appena detto, ma anche parleremo dello sciopero delle donne del 25 novembre con una compagna delle MFPR, poi della manifestazione del 26 novembre, non una di meno, sabato alle 14, un corteo contro la violenza dei uomini sulle donne, chiameremo una compagna del centro Donna Lisa, e parleremo anche dello sgombero del centro antiviolenza di Lecce che è stato la settimana scorsa. Poi e poi continueremo con uno spazio più internazionalista. E prima dello spazio internazionalista parleremo anche della manifestazione sciopero delle donne di domani 25 novembre e ci collegheremo con delle compagne che stanno facendo un lungo viaggio perché vengono da Palermo, una delegazione dell'MFPR, lavoratrici precarie, e appunto stanno già in viaggio venendo a Roma con il pullman, e quindi ci collegheremo con loro. E sì, allora in questo mese di novembre, l'abbiamo visto la settimana scorsa, tante donne in piazza, tante donne si muovono, è sempre così, non è che poi sarà secondo me a lungo ancora per molto tempo così, perché non è che le cose cambiano così velocemente. Siamo sempre sotto attacco dei maschilisti, dei maschile, dei maschi, vabbè, non sappiamo più neanche come chiamarli. E dunque dall'altro lato dell'Atlantico, lì in Messico, in Chiapas, un incontro femminista. Perché mi guardate così? Sì, chiamiamo questa compagna. Certo. Sì, okay. Certo, sì, sì, sì. E dunque con una corrispondenza con lei. E poi avremo nello studio Patrizia Fiocchetti, che è autrice del libro Variazione di Luna, donne combattenti in Iran, Kurdistan, Afghanistan. È un libro molto interessante dove lei si fa testimonianza, ma anche molto attiva attiva nei movimenti, ma anche nei combattimenti e eserciti di donne in Iran, in Kurdistan e in Afghanistan. Ci parlerà un po' dell'esperienza, ma anche della situazione e dunque come queste donne hanno combattuto e continuano a combattere per la libertà del loro popolo e la libertà delle donne. Parlando del Kurdistan, parleremo con una compagna appena tornata di Ahmed, che anche lì a Ahmed c'è stato un appello per un congresso internazionale al momento del 25 novembre. Lei ci racconterà sia il congresso sia la situazione delle donne e dei curdi in questa zona in questo momento. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir llevar. África ni América Latina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escucharte. Ma non abbiamo ricordato le nostre coordinate per contattarci, c'è il numero di telefono, lo 06 49 17 50 per parlare con noi in diretta, c'è la nostra mail mfla@ondarossa.info e per chi si fosse persa la puntata volesse riascoltare le cose di cui abbiamo parlato questa sera le troverete da domani sul nostro blog mfla.noblogs.org. Tra pochissimo in diretta con noi una compagna del Centro Annalisa che lancerà la manifestazione del 26 novembre all'interno di questo spazio che speriamo sia molto partecipato, questo filo diretto in cui invitiamo tutte le compagne, le donne e le ascoltatrici in ascolto a chiamarci e a rispondere insieme a noi alla domanda qual è la tua strategia di difesa contro la violenza maschile e contro il patriarcato. Colonización, Matías, Catrileo, Walmapu. Mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carrito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Jumanji and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I found. The clothes I'm wearing, I found. E quindi, in attesa di collegarci con la compagna del Centro Donna Lisa, che ci lancerà la manifestazione del 26 novembre, di cui comunque in questo spazio abbiamo ovviamente ampiamente parlato, potremmo dare voce all'appello dell'Argentina al mondo verso le giornate di lotta contro la violenza di genere del 25 e del 26 novembre, come abbiamo già raccontato nelle scorse trasmissioni. La manifestazione, non una di meno, parte da delle mobilitazioni che sono andate prima in Spagna e poi sono passate in America Latina. Il nome è stato ripreso anche qua a Roma, è stato ripreso a Berlino, sarà ripreso a Londra, insomma è ripreso in tutto il mondo. E il nome di questa manifestazione è, per l'appunto, non una di meno, tutte vive. La manifestazione argentina, che è stata veramente molto molto partecipata, ne hanno fatte diverse in realtà in queste ultime settimane, a seguito dell'uccisione di una ragazza che è stata prima violentata poi impalata. Ci sono state manifestazioni veramente grandi che si sono espanse per tutta l'America Latina. Insomma, dall'Argentina già sta partendo un appello per uno sciopero globale delle donne il prossimo 8 marzo. Leggiamo magari uno stralcio di questo appello. Noi ci organizziamo per il 25 novembre qui e in tutto il mondo. Ci riuniremo e ci organizzeremo in molteplici e differenti forme. Organizzeremo assemblee popolari, radio aperte, elezioni pubbliche, interruzione delle attività nei luoghi di lavoro, interventi artistici e politici nello spazio urbano. Noi ci organizziamo e la nostra organizzazione è globale. Intrecciando lingue e superando frontiere, come fanno le donne migranti che sfidano l'illegalizzazione della nostra mobilità, emerge la ribellione contro la violenza, contro la femminilizzazione della povertà, contro il razzismo, contro l'assenza di rappresentazione politica, contro il tentativo di confinare le donne e le ragazze nello spazio domestico, contro i dogmi religiosi che si appropriano dei nostri corpi e delle nostre vite, contro la maternità come obbligo e contro la criminalizzazione dell'aborto, contro le nuove forme di sfruttamento capitalistico e la precarizzazione delle nostre esistenze. In tutto il mondo ci organizziamo con uno slogan comune: ni una de menos. I told you we were fools playing all the time in this room, with the death shadows in our mind, with the death shadows fly around. People talked about us, they were saying that we lived in sin, trying to hide our own bodies under our own fake skins. But I told you we were fools playing all the day in this room, with the death shadows on the knife. Stop the hunk, stop the sacrifice. Insomma, sono tantissimi i modi in cui le donne si stanno organizzando, si organizzano da sempre in realtà per combattere la violenza maschile contro le donne. E tu come ti stai organizzando? Come ti sei organizzata? Noi che cosa stiamo facendo? Tu davanti a me come ti stai organizzando? Qual è la tua risposta? La tua strategia di difesa? La mia strategia di difesa è provare a fare insieme a voi, insieme alle ascoltatrici, insieme a voi qui in studio in questo momento, un filo diretto con appunto chi ci ascolta, chi ha voglia di rispondere a questa domanda. Devo iniziare proprio io? Quali sono le tue strategie di difesa contro la violenza maschile e il patriarcato? Aggiungere, per quanto mi riguarda oggi, il capitalismo, il neoliberismo, il mondo del lavoro, visto che non è stata una giornata facile da questo punto di vista. Allora, la mia ti ho presa la sprovvista strategia quotidiana credo che sia rivolgermi, guardare, avere come punto di riferimento le altre donne. Cioè penso che come cosa proprio basica, basica, che però mi permette di crearmi uno spazio intorno a me un po' più sicuro, un po' più di agibilità, sia questo, di aver scelto come punto di riferimento da ogni punto di vista, o quelli che ho potuto scegliere chiaramente, quindi da un punto di vista affettivo, relazionale, politico, le altre donne. Poi dal punto di vista lavorativo, vabbè, quello insomma, vabbè, un altro mondo, perché poi questo intanto come risposta ti darei, poi dopo magari aggiungiamo altro. E a questo punto no, però no, la mia non l'ho preparata. Neanche io ero preparata. Quali sono le nonostante saremmo dovute essere, vabbè. Proprio noi. Vabbè. Non è una domanda semplicissima, in realtà quando l'abbiamo pensata l'avevo un po' sottovalutata. Non è una domanda perché racchiude anche tutta una serie di processi che c'è, come il riconoscimento della violenza, che non è facile e che tuttora, anche magari dopo tanti percorsi con le altre donne e dopo anche tante battaglie, insomma, non mi riesce ancora benissimo, quindi in realtà questa forse è un primo step da superare, quindi mi focalizzo ancora un po' su quello, sono rimasta ancora un po' indietro. La cosa che mi dà molto forza, vabbè, ovviamente riuscire a stare con le altre e trovare le donne, insomma, una degli slogan che più mi piace sono: le strade sicure le fanno le donne che le attraversano, perché le donne che poi si tutelano a vicenda e si incontrano anche solo con uno sguardo, anche in un momento di paura o di disagio, ti dà un sacco di forza. Quindi magari anche solo guardare una donna in difficoltà in un momento in cui non sa bene come uscire da una situazione difficile, secondo me è anche un aiuto molto forte. Questa potrebbe anche essere una sottodomanda. Cioè ti succede, ti capita comunque nella vita quotidiana di avere questo tipo di scambio, di appoggio, di sostegno, anche con uno sguardo solo, anche con una donna che non conosciamo, anche per strada, ci capita? Quanto ci capita? Sarebbe anche questa una cosa interessante magari da sapere. A volte succede, a volte no. Episodi magari, qualche racconto. Marta? Allora, ovviamente con noi oggi studio anche tante compagne della redazione, insomma non è solo una serata del martedì, è una serata di tutte noi. E niente, stiamo andando un po' a braccio. Qual è la tua strategia di sopravvivenza in questo duro mondo di maschi? No, scherzo. No contro, scherzo. Insomma, sì, la violenza maschile, la violenza del patriarcato. Allora, diciamo che non lo so, è come se ci fossero diversi livelli. Direi quello c'è, il livello della sopravvivenza quotidiana. Quindi quello proprio di essere una donna che vive sui spazi, la metro, gli autobus, i mezzi, la mera vita quotidiana. E diciamo, nell'evoluzione della mia vita ne ho avuti diversi di momenti, perché c'erano quelli in cui abbozzavi e ti facevi venire l'ansia quando eri più giovane, quelli in cui poi ti evolvi. E spero ancora di portare avanti questo mio progetto e di inventare il click da borsetta. Quindi potremmo comunque essere femminili ma anche pronte allo scontro. No, non so come dire, quella ognuna un po' se la gestisce com'è. Io sono una persona fumina, talvolta io tollero, talvolta mando a cagare, talvolta. Però diciamo che è dura, perché comunque il giorno che te rode dici: oh, ma che è? Ma che regola è questa? Che io devo uscire di casa e per forza almeno una volta al giorno sentirmi gli occhi di qualcuno, lo sguardo di qualcuno, qualcuno che commenta, qualcuno che dice. E questa cosa è molto fastidiosa. E allora uno cerca delle armi anche per non solo vivere il presente, ma anche cercare di trasmettere determinati pensieri, modi di vivere, appunto, no? Che armi ti dai? Non lo so, un po' io credo molto che, insomma, lo dico spesso, sono una persona fortunata di poter partecipare, per esempio, in un mezzo come questo, e quindi cercare di fare in tutto quello che si mette sempre questa trasversalità, e talvolta anche forse metterla davanti ad altro, perché comunque nel suo essere una minoranza più spazio trova meglio è, non so come dire, è una dura battaglia quella che portiamo avanti, quindi secondo me ogni volta che è possibile dargli spazio, quindi talvolta preferire la musica femminile, sicuramente selezionare della musica che abbia dei valori nel suo essere musica, quindi comunque poi sicuramente la musica delle donne, perché come in tutti i settori è quella che fatica di più a uscire fuori, e che invece appunto rispetto alla musica che io metto negli ultimi anni ha fatto rete, e allora per esempio fare rete con altre donne è sicuramente un'altra alma pazzesca. Nel quotidiano credo anche dei piccoli atteggiamenti diversi, vengono definiti diversi, che poi forse invece tra donne vengono anche molto più, quindi quella scardinare dei meccanismi che ci si aspetta, le invidie, le gelosie, i rapporti di competizione, scardinare tutto questo, perché poi alla fine ci si rende conto che sono abbastanza imposti, fanno parte di un manuale un po' scontato e triste in cui vengono relegati i nostri ruoli. Ecco, quello credo un po', relazionarsi ogni volta con una donna in un modo proprio e non quello che viene definito, insomma, quindi credo che queste sono le cose che appunto ci legano e poi ci fanno, ci riescono comunque a dare delle armi, le nostre, ecco. Beh, sono tante, direi, no? Sì, sì, mi veniva da aggiungere, ritornando a quello che dicevamo prima, nel senso che poi a volte questa cosa di scardinare alcuni meccanismi molto importante, e a volte però mi succede di avere un sacco di sorprese, cioè magari da donne più o meno sconosciute, quella collega là, quella, cioè, o magari che incontro, magari anche sull'autobus, appunto. Invece riuscire a trovare delle piccole cose di complicità che ti danno, dicono, ah, vedi però. O semplicemente capire che davanti a un atteggiamento diverso si sentono invitate ad un atteggiamento diverso. Sì, no? Quindi come se poi allevare una maschera, allevare a ritrovare una genuinità, un sapere qual è il fondo poi alla fine. Ma solo perché un attimo, perché tutte donne comunque subiamo questa violenza a diversi livelli, dunque, cioè, quali sono quelle che, cioè, apri una piccola porta e comunque apri tanti racconti di violenze vissute e di strategie messe in piedi per sopravvivere davanti a questa violenza. Io la vorrei dire una, sembra sciocca, ma io mi faccio il cane. Il cane, vado in giro con il cane, me lo fanno ogni volta, me lo faccio più grosso. Lo so, sembra una sciocchezza, però in realtà la sera me lo porto dietro, lo parcheggio, sta con me. È una strategia proprio quotidiana, così, molto base, però. Eh sì, se è la tua, comunque è giusta. Femmina, cana femmina, ovviamente, però. Faccio questo. Perché i maschi se ne vanno poi, capito? Scappano. No, passa attacco. Seguono le tracce e scappano. E allora, eccoci in diretta, pronto, ciao? Sì, ciao. Ci sentiamo, siamo al telefono con Daniela, una compagna del Centro Donna Lisa. Come Centro Donna Lisa ci sentiamo spesso, ogni tanto, telefonicamente da questi microfoni, diciamo che abbiamo... ci sentiamo da molti anni. Sì, da molti anni abbiamo sempre un canale aperto, e voi avete, come Centro Donna Lisa, avete seguito l'organizzazione, la preparazione della manifestazione del 26 novembre, non una di meno, e per cui ti volevamo chiedere come, appunto, qual è stato, com'è stato per voi, che cos'è per voi questa manifestazione in quanto centro antiviolenza, insomma, un po' se ci vuoi un po' raccontare il percorso dal vostro punto di vista. Sì, diciamo appunto il percorso nostro dentro la rete Io Decido è già iniziato da parecchi anni. Poi quest'anno diciamo, ci siamo ritrovate tutte quante alla Magliana dopo il brutale assassinio di Sara di Pietrantonio, la ragazza bruciata alla Magliana, e lì, come dire, un po' ci siamo guardate e abbiamo detto ma forse dovremmo riprendere parola tutte quante insieme sulla questione della violenza sulle donne. E da lì diciamo che è partito un po' tutto, perché è stata quella, diciamo così, la molla. Certamente noi come Centro Antiviolenza ormai appunto siamo 19 anni, quest'anno festeggiamo il nostro 19° anno di esistenza qui a Roma, e quindi lavoriamo quotidianamente, però come sapete insomma noi diciamo così coniughiamo il nostro lavoro come Centro Antiviolenza però con l'idea che non si scardina, no, la questione della violenza sulle donne se non si lega a un cambiamento radicale di questa società. Per noi la violenza sulle donne è strutturale, è sistemica, e quindi va, come dire, cambiato tutto il sistema della società. Lì con un, appunto con altre associazioni, gruppi collettivi, abbiamo avuto l'idea di vabbè, proviamo a riprendere parola su questo. Abbiamo organizzato diverse assemblee, la prima molto grande a San Lorenzo, che ha visto la partecipazione di 300 persone in piazza, e da qui, da quel momento è stata lanciata la manifestazione del 26 novembre e poi i tavoli del 27. E c'è da dire che evidentemente a volte erano ormai anni che non si scendeva in piazza, diciamo così, su questa tematica, e è stata colta sicuramente una sensibilità che nel paese c'era, nelle donne, nelle singole, nei collettivi. E tra l'altro poi, come dire, questo secondo me è stato anche favorito, non lo so, tra coincidenza eccetera, delle varie movimenti di donne che si sono mossi in tutto il mondo. Cioè ricordiamo l'Argentina, la Polonia, sì. E adesso anche le donne, no, della Turchia. Cioè, c'è stato veramente, secondo me, c'è un movimento straordinario di donne che sta scendendo in piazza e che sta dimostrando, come dire, la forza e la potenzialità, no, delle donne quando si fanno insieme. E quindi abbiamo colto veramente una sensibilità che secondo me è andata anche oltre le nostre aspettative. Se vedete le adesioni e le iniziative che si stanno creando in tutta Italia sono continuano tantissime. A crescere fra l'altro, no? Come, scusa? Continuano a crescere le adesioni. Sì, le adesioni continuano a crescere, insomma l'elemento per esempio straordinario sarà che noi, tra l'altro appunto, la manifestazione sarà un momento di piazza, di visibilità, di forza delle donne, perché anche questo serve. A volte, cioè, lavori, capito, nei piccoli centri, nelle periferie della città, e ti senti un po' in solitudine, no? Il fatto invece di avere momenti in cui ti rincontri, poni i tuoi luoghi, le tue cose, ti dà forza per ritornare nei tuoi luoghi e sentire che non stai da sola, ma che puoi, come dire, contribuire, siamo in tante, e quindi questa forza che si manifesta al 26 ha sicuramente, come dire, riporta a ognuno di noi a casa un'energia di poter veramente trasformare alcune cose. Però non ci vogliamo noi soffermare solo il 26, ma il 27 è stata invece una giornata in cui la violenza sulle donne verrà affrontata in tutte le sue sfaccettature. Sono state, diamo così, cioè 8 tematiche, che quindi saranno oltre 8 temi, e l'idea era quella di riscrivere il piano antiviolenza, vale a dire, anzi no, più che di scrivere, proprio di, più che di riscrivere, di scrivere il piano antiviolenza femminista, che si dovrebbe presentare pubblicamente, visto che il governo entro giugno ha detto che scriverà il suo. Ai tavoli stiamo avendo, diciamo così, una partecipazione straordinaria ad oggi, e sono stati chiusi già con penso una giornata prima di quella della data prevista, ci sono 1300 donne ad oggi, e presumiamo che praticamente ce ne saranno tante altre che non hanno avuto la possibilità, che magari gli è sfuggito. Quindi non saranno più tavoli di lavoro, ma saranno vere e proprie assemblee. E quindi questo dimostra che evidentemente, come dire, le donne vogliono contare in questo paese, e sicuramente abbiamo colto una sensibilità, e questo, come dire, per me è straordinario, insomma. Cioè, ormai erano tanti anni che le donne non scendevano in piazza così numerose, evidentemente abbiamo colto appunto la sensibilità, abbiamo dato una possibilità. E ripeto, è veramente straordinaria. Sì, Se poi questo lo colleghiamo a tutto quello che sta succedendo nel mondo, oggi ho letto la notizia che il governo turco ha ritirato questa proposta di legge infame, per cui venivano praticamente, se un uomo stuprava una minorenne, una ragazza, però poi, come dire, la sposava, poteva essere appunto non condannato, non incarcerato, eccetera. Allora credo che lì, anche lì, le donne sono scese in piazza e il governo è stato costretto a ritirare, come anche è successo in Polonia. Praticamente la proposta di legge sull'aborto, in un paese dove già la legge sull'aborto è molto restrittiva, quindi era una proposta che ancora di più ristringeva la possibilità alle donne di abortire, anzi probabilmente se l'avessero fatto venivano equiparate a degli assassine. Credo che questo, come dire, c'è una straordinaria forza. Sì, no, è vero, vuol dire, cioè, ma anche appunto la grande adesione che c'è stata in Italia dei gruppi, dei collettivi, delle organizzazioni, dei centri antiviolenza, vuol dire che evidentemente comunque il terreno era veramente pronto. Cioè, nel senso che lo diciamo sempre, poi il movimento femminista è carsico, il carsico vuol dire che, cioè, sale e scende, in dei momenti riesce veramente a prendere le piazze in modo appunto molto presente, altri momenti comunque continua a lavorare nel sotterraneo e perché c'è tanto comunque, no? C'è tanto lavoro. Certo, non torna a casa, questo è un po', come dire, no? Cioè, c'è dei momenti di esplosione, poi però non, come dire, non ritorna a casa, ecco, e non torna indietro neanche. Esatto. Ci pensano gli altri a volte a fare delle proposte per farci tornare indietro. Senti, allora un po' di appuntamenti e anche un po' di logistica, nel senso il corteo come sarà organizzato proprio il corteo? Allora, il corteo partirà alle 14 da Piazza della Repubblica o Piazza Esedra, perché ci sono arrivate anche da fuori noi, tanto le nostre comunicazioni, diciamo Piazza Esedra, in un'altra Piazza della Repubblica ci sono arrivate mail in cui dicono sì, ma qual è la piazza? Allora, la Piazza della Repubblica è quella ufficiale, attraverserà via Cavour, via dei Fori Imperiali e finirà a San Giovanni. Durante il corteo sono previste delle tappe appunto che in qualche modo richiamano i temi dei tardi del giorno dopo, e quindi sulla salute, l'autoriproduzione, i migranti, i centri antiviolenza, la narrazione che ne fanno i media della violenza. Quindi ci saranno delle tappe in cui ci saranno varie cose, comunque varie performance comunicative, tematiche. E arriverà poi appunto a San Giovanni, dove però appunto non ci sono palchi, non ci sarà un palco, c'è solo un camion, e sono previsti appunto degli interventi sia lungo tutto il percorso che alla fine del percorso, con molte artiste. Tra l'altro abbiamo avuto un'adesione straordinaria di artiste che in vario modo e in varie forme attraverseranno con noi il corteo. Ci saranno poi vari interventi, per esempio è previsto l'intervento della donna che è morta, se avete seguito il caso, sì. È la donna incinta di due gemelli che ha avuto un problema nell'ospedale di Catania, e lì c'era un medico obiettore per cui non è voluto intervenire e la donna è morta. Mm-hmm. Interverranno in piazza i genitori, a cui ci tengono veramente tanto, a poter dire la loro e dirla insieme a noi. Quindi questo è un po' lo svolgimento. Il giorno dopo, la giornata. Senti, ancora sul corteo, che ci sarà uno striscione di apertura, ci sarà scritto Non una di meno, sì, ci sarà una prima parte con i centri. La composizione, vuoi sapere sulla composizione del corteo? Ci sarà sicuramente lo striscione di apertura che sarà Non una di meno. A questo seguiranno tutti gli spezzoni di donne, i centri di violenza, gli spezzoni varie, le associazioni, i collettivi di donne, e verrà, perché appunto il corteo viene aperto dalle donne. Ci sarà poi un camion nel quale sono previsti interventi, e dietro al camion ci seguiranno, se avete seguito un po' tutto il corteo, viene aperto dalle donne, è promosso dalle tre associazioni, la rete Io Decido di Roma, UDI, e DIRE, che è l'Associazione Nazionale dei Centri di Violenza, quindi sarà il grosso spezzone del, diciamo così, di tutte le donne centro antiviolenza, e dietro ci saranno tutte e tutti coloro che hanno assunto come centrale, diciamo così, nei processi di trasformazione la lotta contro la violenza sulle donne e contro il patriarcato. Ok, perfetto. Quindi la prima parte è aperta dalle donne e dietro sarà la parte, diciamo così, composta da collettivi queer, femminili, vale, sì, eccetera. E ognuna sceglierà dove collocarsi. Esattamente, sì. Senti, poi il giorno dopo, il 27, ci saranno invece questi tavoli per costruire questo piano nazionale dal basso contro la violenza, no, sulle donne. O dovrebbe essere un inizio di un percorso, come appunto poi dicevi, saranno più a un appunto delle grandi assemblee. E luogo? Allora, il luogo inizialmente nelle nostre comunicazioni avevamo dato la scuola elementare di Donate presso vicino Piazza Vittorio. Visto la straordinaria adesione, abbiamo cambiato il luogo e sarà la facoltà di psicologia a Via De Marzi a San Lorenzo. Ah, ok. Quindi chiediamo a tutte di arrivare per le 9:30, perché chiaramente poter far entrare tutte sarà un problema, la suddivisione eccetera, quindi ci sarà 8 tavoli di accoglienza nei quali chi si è iscritto, purtroppo ci sarà anche un po' una sorta di vincolo, nel senso abbiamo chiesto proprio l'iscrizione per poter capire logisticamente dove poter fare questa giornata. Allo stesso tempo oggi ci ritroviamo con un numero di iscrizioni maggiore, proprio per poter dare l'agio a tutte di poter intervenire, soprattutto anche ascoltare, perché anche quella poi è la difficoltà. Quindi ci saranno i tavoli dove ognuna si va lì ad iscrivere o a fermare e verrà smistato nelle aule. Chiaramente chi ancora non si è iscritta, noi non neghiamo a nessuna l'entrata, però poi diamo, diciamo così, la precedenza alle donne che si sono iscritte e poi entreranno tutte le altre. È un problema, ce ne rendiamo conto, ma gestire 1300 persone suddivise per 8 tavoli. Vabbè, io lo prenderei come un dato positivo, insomma, ah, sì, questa però mi rendo conto che logisticamente ovviamente, vabbè, ci stringiamo, dai. Sì, siamo quello stretto strette, però va bene, appunto, poi per questo dico che non, cioè, chiaramente non potrà finire lì, ma anzi i tavoli in piena autonomia dovranno costruire il loro percorso per poter poi arrivare a delle tappe intermedie e arrivare poi a definire la nostra proposta entro giugno. Li leggerei comunque i titoli dei tavoli, comunque anche per la ritardataria che forse riuscirà a entrare. Allora, sono il tavolo numero 1, la narrazione della violenza attraverso i media, come immaginarne un rimbaltamento. Poi educazione alle differenze, all'affettività, alla sessualità, la formazione come strumento di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Il numero 3 è diritto alla salute, libertà di scelta, autodeterminazione in ambito sessuale e riproduttivo. Il 4 è piano legislativo e giuridico, enorme, o come tutti gli altri. Il 5 è percorsi di fuoriuscita dalla violenza e percorsi di autonomia. Il 6 è femminismo migrante. Il 7 lavoro e accesso al welfare. E l'8 sessismo nei movimenti. Esatto. Senti, tu in quale tavolo sarai? Come centro analisi, immagino un po' andrete in alcuni tavoli, ma vi dividerete anche? Sì, noi siamo chiaramente come centro donna, anche se il nostro, come dire, principio lavoro è quello sui percorsi di fuoriuscita, no, noi saremo su tutte. Io probabilmente, se proprio volete la mia scelta personale, sarò dirottata forse su quello sul lavoro. Però poi vediamo, insomma, ci stiamo, come dire, cercando di seguirli tutti. Va bene, va bene. Senti, ti ringraziamo molto. Sicura, grazie a voi. Ci si vede in piazza. Ci vediamo il 26. Ciao, okay, grazie. Ciao. Grazie mille. Ciao, ciao. Ciao. Que nous aider un peu, hein, si vous avez envie. Je force pas. قلبي اطلبوا قلبي مهم قلبي تعلبي لا تقلي تعلبي قلبي تعلبي اطلبوا قلبي مهم Torniamo in voce, vi ricordiamo il nostro numero di telefono 06 49 17 50 per partecipare con noi a questa discussione. Vi abbiamo chiesto di telefonare, ma c'è anche chi proprio è passata fisicamente. Ciao! Cosa fantastica! No, mi piace molto questo passo, bellissimo. E niente, noi insomma abbiamo un po' aperto questa discussione. Quali sono le tue strategie di difesa contro la violenza maschile e del patriarcato? Insomma, abbiamo cercato un po' di raccontare anche le nostre, da riconoscimento della violenza, allo sguardo verso le altre, allo stare insieme, insomma, cerchiamo vari modi per sopravvivere sia la quotidianità che magari una dimensione politica che riusciamo magari noi insomma a creare tutte insieme. Qual è la tua strategia? Come sei sopravvissuta? Come sopravvive, che poi allora, sopravvivere pure è un po' sbagliato come termine, in effetti, che noi non sopravviviamo, lottiamo e andiamo benissimo. Sì, però diciamo lo che il termine survivors è più figo forse, sì, di sì. Sopravvissute. Sì, sì. Beh, nel senso, secondo me c'è una che di positivo, perché è una riappropriazione, cioè comunque è il ribaltamento del vittimismo che appunto ci attaccano e ci proiettano contro, per cui non vittime, perché non ci siamo rimaste sotto, ma siamo sopravvissute, abbiamo attraversato un'esperienza di dolore, di violenza, la attraversiamo. Comunque le tante esperienze di violenza le attraversiamo quotidianamente tutte e comunque ne usciamo ogni volta il più possibile a terza alta, quindi in questo senso, cioè con le cicatrici, ma sopravvissute. A me mi piace tanto questa parola. Sì, io sono d'accordo con te, nel senso che è proprio, no, di contrapposizione all'essere vittime di violenza. L'essere sopravvissute a violenza significa che abbiamo vinto noi. Sì, è vero che però ad alcune non piace, eh? Cioè sì. Questa... No, in realtà adesso che è stato spiegato ha ovviamente un'altra valenza. Mentre lo stavo dicendo prima mi dava più forse un'idea di passività, mentre in realtà no, io sono sopravvissuta con tante strategie, tanta forza, tanto dolore, tanto pianto, tanti sorrisi, insomma tutto quello che una donna poi mette nella strada che deve attraversare nella propria vita. Quindi sì, effettivamente racchiude un sacco di cose questo termine. E la mia strategia è che io faccio l'operatrice antiviolenza con appunto una cooperativa che si occupa di donne sopravvissute a violenza e sfruttamento sessuale. E diciamo che con tutta la fatica di stare sempre a contatto con queste situazioni, in realtà è un lavoro, un essere attivista che ti permette anche di incanalare la rabbia in qualcosa che poi può dare dei risultati, ecco. E la rabbia è qualcosa che attraversa molto questo spazio di intervento. Infatti prima per scherzare dicevo, no, dell'ulcera, oltre all'ulcera che c'è, sì, immagino. Oltre alla gastrite. E poi le strategie di sopravvivenza e di resistenza e di lotta contro la violenza sono quelle dello stare insieme tra donne e di esprimere la nostra rabbia anche all'esterno e non tenercela dentro. Veniva in mente una cosa che facevamo, vado proprio sul quotidiano, una cosa che facevamo con il gruppo di donne che avevamo formato al centro sociale quando ero proprio piccola, insomma avevamo 16 anni e abbiamo formato questo gruppo femminista all'interno del centro sociale misto dove stavamo e andavamo in giro, quando andavamo alle riunioni andavamo in giro tutte insieme, facciamo gli addescamenti sull'autobus, cioè si metteva una e appena qualcuno gli rompeva le scatole noi lo picchiavamo e poi scendevamo dall'autobus ed era una cosa che ci piaceva tantissimo in realtà. Ci dava un sacco di forza, era vabbè anche così un po' spensieratezza della gioventù, adesso magari lo riproporrei con la consapevolezza che potrebbe finire insomma peggio di come poteva finire quando ero piccola, però mi piaceva molto questa strategia, diciamo, molto da ragazzine, diciamo, sono le prime esperienze che provi. Diciamo che per me è uno degli immaginari di quando mi succede qualcosa, quando mi fanno un torto, quando fanno un torto a qualcuna di noi, cioè è una cosa che molto è un pensiero, è un film che mi faccio mentale, anche abbastanza liberatorio, sarebbe molto più bello e cioè importante farlo realmente, ma appunto trovare delle situazioni in cui, anche perché insomma un po' sappiamo il posto dove c'è il guardone che si mette sempre lì, lo sappiamo, ci siamo passate in varie e così via, una volta andare un minimo organizzate con una che va da sola e poi le altre dietro, insomma, nel senso io il film me lo faccio, sarebbe molto importante, forse bello e divertente. No. A me è successa veramente una cosa del genere, appunto quando ero molto appena arrivata a Roma dal paesiello e praticamente un vecchio mi aveva adescato appunto sull'autobus parlando, insomma, e poi c'erano state delle molestie e io sono andata a dirlo alle mie compagne e il giorno dopo abbiamo tappezzato tutto il suo palazzo con il nome, perché mi aveva detto pure il nome in questo suo tentativo di approccio diciamo. E con appunto con il suo nome, raccontando quello che era successo, e abbiamo tempestato il condominio di volantini ed è, diciamo che quella è stata la prima volta per me appunto che mi approcciavo ai collettivi femministi di vivere sulla mia pelle cosa significa la solidarietà tra donne, no? Io sì, sono andata da loro un po' sconsolata, un po' e invece le mie compagne avevano subito trovato il modo, insomma, di sostenermi. No, è importantissimo avere le altre accanto. Io mi rendo conto che i periodi in cui ho meno donne intorno a me, tante mie difese si abbassano, la mia capacità di reazione si abbassa tantissimo. E mi ricordo che dopo aver fatto un gruppo di autodifesa insieme a altre compagne, altre donne, in cui non imparavi solamente i colpi da dare, quella in realtà era un po' forse non marginale, però una cosa che viene dopo, la prima cosa che devi imparare a usare il tuo corpo e credere realmente che in quel momento tu hai il diritto di reagire. Secondo me questa è la cosa veramente più difficile, nel senso che quando si succedono delle cose abbiamo 3000 pensieri in testa, forse sono io, forse non è vero, ma adesso che faccio, ma se lo dico la gente che... cioè, si creano sempre delle situazioni per cui tu non è che scusi la persona staccata te assolutamente, però non trovi bene il coraggio. Mi ricordo che un'altra stavamo suonando a una festa all'università e un ragazzo mi mise le mani intorno ai fianchi, io non lo conoscevo, così mi sono girata e gli di un cazzotto sulla testa, fui così contenta, fu libera. Non era fortissimo, nel senso che nell'intenzione sì, però poi in realtà come è venuto fuori, no, piuttosto una bottarella, però fui molto contenta di questa cosa e mi fece specie perché in realtà io fondamentalmente sono una persona anche abbastanza forte fisicamente, ma non riesco poi in situazioni, sono abbastanza difficile. Questa quindi è una cosa che insieme la superiamo. Hai trovato la stessa mia soddisfazione quando sono stata capace di rompere la tavoletta di legno? No, fantastico. È vero. È vero, fantastica. Io non sapevo di esserne capace. Sì. Comunque 06 49 17 50, questa è Radio Onda Rossa, questo è il martedì giovedì autogestito da femministe e lesbiche, stiamo facendo un filo diretto, quindi vi chiediamo di telefonarci, diciamo, o anche di passare, stanno insomma passando a trovarci, questo ci fa piacere, ma insomma chiamateci comunque 06 49 17 50. Stiamo ragionando, raccontando storie, ma anche un po' prendendo così dalle nostre esperienze quello che ci viene in mente. Quali sono state nella nostra vita le strategie di difesa contro la violenza maschile e il patriarcato? Abbiamo anche parlato di quanto è importante la solidarietà fra donne, quindi se qualcuno volesse per esempio invece raccontare qualche episodio della sua vita che si ricorda di solidarietà fra donne, o appunto momenti che sono stati importanti, che hanno cambiato, mosso qualcosa nel proprio sentirsi in diritto di prendere il proprio spazio, difendersi, dire di no, insomma storia di vita, se volete raccontatecele, 06 49 17 50. Yes, they rabbi sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever had, redemption song, redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. Oh, how long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Oh, won't you help to say songs of freedom, who's all I ever had, Vabbè, non è facilissimo per tutte ovviamente parlare, insomma, alla radio, non, magari ci siamo abituati, abbiamo aver scontato, però ci ha appena chiamato una campagna, insomma, che dirà che ovviamente sarà in piazza il 24, ribadiva il fatto che 26. Il 26, niente, vabbè, comunque sarebbe stato in teoria il 25, ok, niente, perché questa cosa che ci siamo messi al giovedì che mi scombussola tutto, mi scombussola le date. Martedì, giovedì è stato un po'. E, insomma, ci raccontava che sono solo lei e la sorella al negozio e che cercheranno di venire almeno alla partenza, insomma, durante l'ora di chiusura, vorranno stare lì con noi e niente, che ammazzano una donna ogni tre giorni, insomma, ribadiva un po' questo e ci salutava a tutte quante. Grazie a te per averci telefonato. While we stand aside and look, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Oh, won't you help to sing these songs of freedom? Songs of Vabbè, allora, quindi abbiamo capito che non telefonate e passate, quindi via dei Falci 56, ci fa piacere. E un'altra strategia di sopravvivenza che ci stavi dicendo adesso fuori onda. Allora, un'altra strategia di sopravvivenza che ho imparato dopo tanto lavoro su me stessa è di non sorridere più, nel senso mai. Che mai, no, no, non mai, vabbè. Però in certe situazioni dove invece prima mi sembrava più consono alla mia funzione, diciamo, nel lavoro, per esempio, no? Avere un atteggiamento sempre molto remissivo, non so come dire. Conciliante. Conciliante, ecco, forse la parola più corretta. A un certo punto ho detto basta. E quindi adesso non sorrido più e a volte anche a testa alta faccio delle obiezioni. E questa cosa mi fa sentire un po' più forte. Sì, che ti leva aiuta. Da uno stato, certo. In realtà di remissione, sì. Cioè, magari anche se non riesco a dirti niente, ma almeno non rido, cioè non, esatto. Sono tua complice in questa cosa, che gli uomini ci vogliono tanto complici nelle loro cose contro le donne. Sì, infatti per esempio le femmine fanno allenamenti per non sorridere. Sì? Sì, fanno parte del loro programma. Lo trovo buono. Una buona cosa, vedi? Sì. Vedi, hanno fatto una strategia di lotta. E allora il tutto che avete sentito era il collegamento con la compagna che del gruppo che da Palermo stanno attraversando la Sicilia e poi l'Italia per venire a Roma per lo sciopero delle donne indetto per domani con manifestazione a partire alle 9:30 a Piazza Montecitorio. Stavano entrando giusto ora nella città di Messina, ci faremo raccontare ed è caduta la linea. Ma io non la sento, però c'è qualche problema. Ok, c'è un gruppo allegro. Pronto? Pronto? Ehi, ciao. Ciao. Allora, okay. Dove siete? Siamo arrivati a Messina, ti mandiamo i saluti, cioè ti faccio sentire in diretta i saluti delle precarie che dobbiamo arrivare a Roma, siamo già belle carie. Avete sentito? Sì, siete sì, tante. Perché c'ho il telefono un po' per intermittenza, quindi sento e non sento. Sì, siamo una bella delegazione, insomma già abbiamo fatto il primo tratto di strada, c'è l'autista che fra poco ci butta fuori dal pullman perché non ci sono più. E quindi comunque siamo belle, diciamo, cariche, contente, insomma, di andare a fare questa nuova tappa, diciamo, del cammino nostro di lotta e soprattutto il fatto che a Roma saremo, insomma, insieme ad altre lavoratrici, ad altre precarie, ad altre compagne, quindi siamo abbastanza, diciamo, piene di energia, insomma, da questo punto di vista. Bene, ma a che ora siete partite da Palermo? Siamo partite alle 6. E a che ora arrivate a Roma? Domani mattina alle 6 e poi insomma ci metteremo in cammino verso Piazza Montecitorio. Sappiamo che a Roma comunque altri sindacati di base, perché il nostro sindacato comunque sta sostenendo la giornata con l'indizione dello sciopero, però ci sono stati altri sindacati di base tipo la CUB che ha proclamato lo sciopero pure per i mezzi, quindi comunque domani in Roma sarà un po', diciamo, bloccata da questo punto di vista, però insomma come l'anno scorso abbiamo fatto la marcia, diciamo, tra i luoghi dove ci sono le donne che lottano, anche qui la consideriamo un'altra tappa della marcia, diciamo, che va avanti, ecco. È tosta tecnica o no? Ecco, è ricaduta la linea con la sosta tecnica a Messina. Vabbè, insomma, mi sembrava un bel gruppo entusiasta e nutrito, quindi. Sì, le compagne dell'MFPR, Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario, e del sindacato Sly Cobas per il sindacato di classe. Giusto? Forse non c'è Cobas, è solo Sly. Sly per il sindacato. Cioè. Un agno di amore. Che significa? Un agno di amore. Te has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices. E quindi MFPR domani a Roma, leggiamo uno stralcio del loro comunicato: siamo lavoratrici del commercio, siamo quelle che devono far sempre buon viso a cattivo gioco. Se voi sapeste quanto è difficile questo gioco, siamo quelle che il sabato e la domenica devono lavorare sempre di più e per forza. Se voi sapeste quanto ci costa rinunciare a un sabato di lotta, una domenica con i nostri cari, siamo quelle per cui le feste comandate non esistono, esiste solo il comando e il controllo. Siamo quelle che il sabato e la domenica devono lavorare sempre di più e per forza. Siamo quelle che non possono chiedere ferie a luglio, agosto e dicembre e tutte le volte che all'azienda non conviene. Siamo lavoratrici del commercio e in commercio l'ipocrisia è d'obbligo. Sapesse quanto ci costa di sobbedire a quest'obbligo. Siamo quelle che devono dire sempre di sì ai capi, anche se analfabeti, razzisti, sessisti e incapaci. Perché per l'azienda, più che la competenza di chi la dirige, conta il servilismo, l'ignoranza e la discriminazione. Perché ciò che interessa l'azienda è l'umiliazione totale e plateale della nostra intelligenza, il controllo sui nostri corpi, sui nostri bisogni. Siamo quelle che se dicono no o non sono carine coi capi, dicono tutte cazzate. Siamo le cenerentole del negozio che si alzano la testa, vanno in punizione a fare le pulizie. Siamo quelle che per un salario devono vendere anche sorrisi, tolleranza e l'immagine del proprio corpo. Siamo quelle che devono regalare comprensione a chi non ci ascolta, a chi non ci sorride, saluti a chi non ci saluta, siano essi padroni che clienti. Siamo quelle che l'unica volta che si sono sentiti uniti contro il terrore aziendale è stato quando hanno scioperato insieme il 25 novembre 2013. Da quel giorno al negozio sbocciò una rosa, la solidarietà di noi lavoratrici a una giovane rosa, vittima di stupro. È ora che queste rose diventino un cespuglio di rovi, un groviglio di spine a difendere la verità. Per questo siamo scese in piazza il 18 novembre contro gli stupratori e chi li difende. Per questo saremo in piazza il 25 novembre contro i padroni e chi li difende. E il 26 novembre inonderemo di nuovo le strade di Roma e riempiremo il deserto in cui lo Stato ci ha cacciate. Corre che viene il profeco, sa cale chi de guaneco, che non te llegue ni un palo, che non te llegue un balazo. Corre che viene il profeco, sa cale chi de guaneco, che non te llegue ni un palo, che non te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste América, resiste, resiste Irak, resiste, resiste Mapuche, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina, espantante Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta, junto a los indígenas, obreros y estudiantes, va por las callampas, por minas, por escuelas, en comunidades con él nos encontramos, y estamos libres de la monarquía. Tormenta la democracia y su yuta, y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta la democracia y su yuta. Corre que viene el profago, saca del kit a tu guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene el opaco, sácale el kit a tu guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste, resiste América, resiste, resiste, resiste Irak, resiste, resiste, resiste la tierra, resiste, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Allora, in questa serata filo diretto, la cosa si è capita è che le femministe, le donne non chiamano, quindi passano qui, quindi abbiamo, vengono direttamente. No, ma va benissimo, anzi, niente, abbiamo un'altra, questa è una bella folta, si dice folta invasione, nutrita, come si dice? Nutrita delegazione, tutta attaccata al muro. Non è vero. Allora, niente, la nostra domanda è: come sopravvivete? Quali sono le vostre strategie di sopravvivenza alla violenza maschile e al patriarcato? Così, una cosa semplice, semplice. Semplice, semplicissima. Non è facilissimo, effettivamente non ti viene di getto. Insomma, un po' nella nostra quotidianità, quando usciamo di casa, quando incontriamo altre persone, quando andiamo al lavoro. Quali sono le cose che si succedono, quali sono le cose che ci vengono in mente che magari lì per lì non pensiamo, ma poi in realtà sono anche forme di sopravvivenza, forme anche di reazione. Ma voglio, vado? Vai, vai. Allora, saluto a tutte. Devi mancare dentro il microfono, c'è solo questa piccola. Vabbè, io la mia strategia di sopravvivenza più che altro alla città è stata andare a vivere in mezzo alle pecore lontano dalla campagna. Dopodiché ogni tanto mi riaffaccio alla città, ma devo dire che la sopravvivenza tocca anche gestirsela in mezzo alle pecore, perché poi ci sono i pastori, di solito sono tutti uomini. E quindi i pecorari, che forse è meglio tornare in città, perché insomma quando te c'è relazioni da vicino ad alcuni, non tutti devo dire, e quindi le forme di sopravvivenza poi si assomigliano, perché devi farti il pelo sullo stomaco e imparare a essere molto tosta, almeno io così ma vivo, diretta, e poi vivo molto, come dire, abbastanza isolata, per cui devo essere abbastanza chiara quando devo far capire che devi stare distante, devi mantenere un certo tipo di rispetto, e quando poi le idee viaggiano facilmente, soprattutto tra i pastori. E quindi vabbè, allora quella che è la mia strategia è quindi quella di parlare molto chiara e diretta, e questa forza, devo dire, me l'ha data, questa capacità me l'ha data la storia con le compagne, la politica con le compagne, sia qua a Roma, cioè qua a Roma con forme di politica diciamo attiva, qua in via al 22, che spero in tante ricordino. E cortei che abbiamo portato, anche quello che risale ormai a una decina d'anni, quasi a una decina d'anni fa, de 100.000, quando eravamo in 100.000 in piazza, quasi esclusivamente donne, che è una bella cosa pure da ricordare, una forma più separata che altro, insomma. E poi forme anche di autodifesa, di una pratica di autodifesa che continuiamo a portare avanti, che poi ti dà la forza di reagire nel quotidiano anche di fronte a aggressioni più o meno sottili nel quotidiano, sui mezzi pubblici, per strada, forme di razzismo, varie forme, insomma. Quindi quella che è la mia strategia è quella di tutto fuori dai denti, sempre con attenzione a non insultare, perché comunque poi non sai mai bene chi hai di fronte, però insomma diciamo le strategie si affinano e a volte si scivola, a volte un po' meno, insomma questa è la mia forma. Di averle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos. torniamo in voce, sempre all'ascolto del martedì, autogestito da femministe e lesbiche, tanti interventi, tante strategie, magari si può prendere anche qualche spunto, sai, molte volte non ti viene in mente, quindi là per là, quindi possiamo anche dare delle indicazioni. Qualcuna ce l'hanno già data, non so se anche voi volete raccontarci qualche strategia che negli anni vi è venuta spontanea, avete costruito da sole con altre. Ma più che strategia è una riflessione che è personale, che è insomma anche collettiva, perché ce lo dicevamo anche prima tra noi, no? La difficoltà di reagire al patriarcato è avere la capacità di reagire e sostenere non soltanto l'impatto, ma anche saper stare nel vuoto, no? Che deriva da una difficoltà, insomma, una non voler accogliere identità prestabilite dettate dall'introiezione dello sguardo maschile, ma neanche modelli femminili che magari non ti appartengono. Quindi questa cosa di tenere botta e di provare a non dissociarsi in continuazione, perché appunto secondo me la violenza poi del patriarcato agisce in questo modo, appunto, ripeto, lo dicevamo anche prima, ti dissocia in continuazione, è una violenza che tende a separarti dal tuo corpo, e quindi la ricomposizione di sé collettiva è la lotta quotidiana di tante di noi, e spesso e volentieri magari alcune di noi sembrano forti, ma perché almeno personalmente mi sento tanto più forte, forse appaio più forte, ma soltanto quando dietro ho la forza delle altre. E meno pratico lo stare tra donne, lo stare tra compagne, e più la debolezza, come dire, dentro di me si fa sentire. E, per cui, se uno parla in termini di strategie, quello che mi ha dato la forza, come dire, di non reggermi sola con gli spigli è stata sempre la condivisione e risuonare con le altre. Yo, Alica y Nueva Alianza. Para todos los barrios. È aperto, il microfono. Era aperto. Vai. Ormai hai detto barca a vela. A questo punto continui, perché noi vogliamo sapere. Visto che si parlava di pecore, e allora, no, visto che sicuramente la strategia, cioè una delle strategie, ma sicuramente la più importante per me, è quella comunque di stare tra donne, perché è la, diciamo, la dimensione dell'esistenza che mi dà più forza, e quindi diciamo che tra donne si possono fare tante cose. Una delle cose che mi, che diciamo sto praticando in questi anni, che è anche una forma di, diciamo, per me di lotta contro il patriarcato, è quella di passare molto tempo della mia vita in barca a vela e tra donne. E quindi, diciamo, essendo una, come dire, una dimensione che è molto raccolta e che diciamo è uno spazio proprio tutto nostro, ce ne siamo in mezzo al mare, comunichiamo solo tra di noi, comunichiamo con gli elementi della natura, e è sicuramente, diciamo, uno spazio in qualche modo liberato. Però devo dire che per me, cioè, sono perfettamente d'accordo con quello che si diceva prima sul fatto che comunque è più, diciamo, più abbiamo degli spazi di condivisione tra di noi, più siamo forti, e più questi spazi diminuiscono, e più anche questa forza e la nostra capacità di reazione rispetto a quello che ci succede nel quotidiano in qualche modo diminuisce. E da questo punto di vista, secondo me, è importante stare tra donne, ma anche la discussione proprio tra di noi, il fatto del condividere i nostri vissuti, i pensieri, le elaborazioni, il pensiero femminista, e secondo me importante per rafforzarci. E da questo punto di vista, secondo me, una delle principali strategie di resistenza al patriarcato è proprio un collettivo femminista. Yo, Alica y Nueva Alianza, San Martín y Iztapalapa Connection, para todos los barrios.